noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Evidentemente abbiamo montato tutto all'ultimo momento, quindi potete capire che abbiamo dovuto sovvertire tutta la scaletta della trasmissione. L'incubo di tutti noi, di Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, di Gianmarco Ferronato che è in regia in questa domenica senza Serie A, ma non senza argomenti, senza Aldo Biscardi, che ha segnato un pezzettino di storia personale di tutti noi e è un po' il papà di tutti quelli che fanno il talk show, in TV, in radio, Carlo, poi ognuno ha la sua opinione. Ma no, ognuno ha la sua opinione, si è inventato comunque una formula vincente, il calcio parlato, in qualche tratto urlato, in qualche volta urlato, qualche volta poi anche sguaiato, anche però, trash. Anche trash, ma sempre con... Anche giornalistico, perché gli Sgoob... Gli Sgoob un po' facevano ridere, un po' tutti. C'erano. Beh, ma l'abbiamo vissuto tutti, no? Non vedevamo l'ora che arrivasse lunedì sera per vedere... il rosso carota di Aldone Biscardi in televisione a raccontarcela come voleva lui, quindi è stato un grande, ha inventato una formula, massimo rispetto, gli mandiamo un bacio lassù. Assolutamente, e ne parliamo anche alle 18.45 con qualcuno che l'ha conosciuto da vicino e mi ha detto prima al telefono, cercherò di essere il più sincero possibile, ovvero il maestro Marino Bartoletti, 18.45, facciamo due chiacchiere su giornalismo, televisione, Aldo Biscardi e tutto quello che gira intorno al nostro mondo. E oggi gioco della torre, quindi non voglio persone che non prendano posizione. Allora io vi do i contatti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta fino alle 19, oppure 349-238-6666, sms e whatsapp, oppure seguiteci sui nostri social, Twitter, Facebook. A proposito, su Twitter ci sono i due sondaggi della domenica, c'è anche Pierluigi Pardo, ciao Pier. Eccoci, ciao, come Pier. Va? Ciao. Bene, bene, oggi bisogna prendere posizione. Allora, primo sondaggione della domenica, primo in ordine cronologico, il disastro della Ferrari, l'alba del Giappone che ha spazzato via il sogno mondiale di Vettel. Allora, intanto vi faccio sentire Arriva Bene. Le ultime due gare ci hanno fortemente penalizzato, ma per dei componenti che nulla avevano a che fare con la bontà del nostro progetto. I punti sono molti, però voglio dire, bisogna anche essere umili, riconoscere che dove a noi sono mancate delle cose, a loro no. Bisogna riconoscere che è finita qui, eh? Questa mattina, 59 punti, sono tanti. Allora, vi stiamo chiedendo di chi è la colpa della fine precoce del sogno mondiale della Ferrari, della fine precoce, perché poi poteva anche capitare che vincesse la Mercedes, ma le ultime tre gare sono state sinceramente un autogol. Marchionne, quindi la Ferrari in generale, Arriva Bene, la Ferrari scuderia, Vettel o anche un po' di sana spiga. Su Twitter trovate il nostro sondaggio. Tu cosa voti, Pier? Secondo me, non sono un esperto di motori, la Ferrari è stata all'altezza per due terzi della stagione, poi mi sembra che nelle ultime gare sono emersi errori anche molto banali, no? Problemi molto banali, quindi poi alla fine se dovessi applicare quello che vediamo nel calcio, diciamo che è stata la partita equilibrata, alla fine la Mercedes sta avendo più esperienza, più sangue freddo. Sì, ma quindi chi ha sbagliato? È la migliore macchina con il miglior pilota. Beh, chi ha sbagliato questo? Chi ha sbagliato? Io ho votato Marchionne. Perché questa mattina, sai cosa mi è venuto in mente? Questa mattina mi è venuta in mente questa cosa, mentre all'alba maledicevo il fatto di essere sveglio. E cioè, mi sarebbe piaciuto sapere che cosa avrebbe detto Marchionne se a capo della Ferrari in queste tre settimane ci fosse stato un Montezemolo qualsiasi. No, vabbè, no, lui ma... che era stato impietoso, sì, con gli errori, però, di quella Ferrari. Certo, è stato impietoso con gli errori. Sì, però ragazzi, dobbiamo per forza cercare un colpevole. Quando un bambino si ammala è colpa della mamma. No, del però papà, quando una macchina non parte per due settimane bene, di fila. Ma, ok, però non è solo essere arrivati dietro. Non dimentichiamoci, adesso non voglio assolvere nessuno perché non è il caso, tanto chi se ne frega, però non dimentichiamo che a inizio stagione tutti avrebbero fatto la firma per arrivare a quest'ora del mondiale con una Ferrari ancora in corsa. È chiaro che la Mercedes è più forte, la Mercedes arriva da una storia vincente come la Juventus, quindi è la squadra da battere, è la macchina da battere, Hamilton è il pilota da battere, hai fatto quello che potevi e poi ti sei incartato sui, su alcuni difetti che possono essere, non possono anche non avere un nome e un cognome. In Malesia Singapore non partono, è un caso a parte. Nessuno dei due parte, o giù di lì. Arrivi in Giappone, sì, ed è una candela, dicono da 2000 euro, perché non è come le candele che abbiamo, certo, noi in macchina, per carità, però stiamo, insomma, sempre parliamo, per usare il gioco 800-24-00-24. Per un paragone calcistico è come, sì, quando Ronaldo si spaccava e tutti dicevano ha un telaio troppo potente, troppo leggero e fragile per il motore muscolare che ha, si sono spinti al limite hanno dimostrato, hanno evidenziato i loro problemi, perché sono arrivati al limite per poter competere. Però dopo le 18 ne parliamo col professor Terruzzi e quindi noi aspettiamo anche le vostre chiamate, prenotatevi per intervenire, che facciamo anche un filo diretto. Il secondo sondaggio è ovviamente sulla nazionale. Oggi Tavecchio è arrivato al capezzale di Ventura, fiducia ribadita. Ieri c'è stato questo patto per il mondiale fatto dai giocatori, soprattutto i senatori nello spogliatoio, senza Ventura, senza lo staff, una cosa che assomiglia un po' a un principio di autogestione. Vi faccio sentire il passaggio più controverso di Ventura l'altra sera dopo Italia-Macedonia. Mi auguro che i giocatori che sono assenti oggi ci siano, mi auguro che quelli che hanno giocato oggi giochino con più continuità nelle loro squadre di club, ed ecco qui che cambia radicalmente lo scenario. Allora, la domanda è questa, visto che poi il Belgio ci ha regalato il pass per gli spareggi. Dovessimo, come tutti speriamo e crediamo, andare ai mondiali, ci dobbiamo andare con Ventura o senza Ventura? Io poi vi dico a che punto è il nostro sondaggio, ci sono quasi un migliaio di votanti su Twitter. Beh, con Ventura, mi sembra evidente, no? Finisci questo tragitto, sebbene siamo sclerotici noi italiani, però... Insomma, sappiamo qual è la situazione della nazionale, non è diversa da quella della Ferrari, quando ti spinge al limite escono tutti i vizi, i problemi, i difetti strutturali anche. È chiaro che Ventura... Qui però il limite è la Macedonia, meno. Sì, il limite, lo so, è la Macedonia, in questo momento numero 103 Ventura, del ranking FIFA. Ventura, e Pierluigi lo sa bene, conta meno, ha meno peso specifico di alcuni senatori che sono a fine corsa. Quindi tu sei con Ventura, Pier? Beh, sì. Ma la Croazia ha esonerato il CT l'altro giorno, in piena corsa per un posto al playoff. Quindi si può fare? No, Borrello si può fare, diciamocelo apertamente. Guarda, io c'è un passaggio solo che onestamente non ho capito, che è stato il rinnovo in estate. Nel senso che io penso che Ventura sia un buon allenatore, bisogna anche considerare le alternative. Cioè Conte è stata, e mi ricordo che c'eravamo per quel poco che contiamo, spesi tantissimo in quella famosa estate per consigliarlo, tra virgolette, alla nazionale. Conte è stata un'anomalia, cioè l'idea che un allenatore da grandissimo club europeo alleni una nazionale è un'anomalia. Non Mourinho non allena una nazionale, Guardiola non allena una nazionale, adesso è libero. Ancelotti lo vorrebbero, però lo vorrebbero in tanti. Beh, ma certo lo vorrebbero in tanti vorrebbero. Sai qual è lo scenario? Io te lo dico. Allora, adesso vi dico i voti. Sondaggione su Twitter, quasi 900 votanti. In caso di qualificazione l'Italia deve andare al mondiale con Ventura o no? Andate su Twitter, chiocciola a tutti i convocati. Aspetta, sì il 32%, no il 68%, e per tutti quelli che votano no l'alternativa è Ancelotti. Ho capito, ma Ancelotti ci viene? Appunto, ci fai i conti senza l'oste, che dici? Poi, col contratto di Ventura che facciamo, visto che questo contratto è stato allungato? Cioè, voglio dire, è un conto... ma vuoi dire che non abbiamo un milione e mezzo da... Io sono perché si deve andare con Ventura, lo dico apertamente. No, io penso dico, è un problema un milione e mezzo di contratto di Ventura? No, è un problema? No, il problema è l'alternativa, perché ha ragione Pierluigi, cioè si fa i conti senza l'oste, Ancelotti ci viene, lo vogliamo però tutti. Se noi ci leghiamo, se noi diciamo che Ventura è inamovibile, anche in caso di qualificazione, a fatica, insomma la figuraccia di venerdì è stata sotto gli occhi di tutti, perché c'è il contratto, secondo me è il modo peggiore per partire. Pier? No, certo, però il punto è che poi un altro modo peggiore per partire è capire quali sono le alternative, che mi sembra un tema onestamente abbastanza fondamentale, perché se l'alternativa è, con tutto il rispetto, un altro allenatore di buon livello, per esempio uno che stimo molto è Guidolin, ovviamente, però dire... cioè, non è che adesso Ventura sia diventato improvvisamente un pirla. Hai letto che stamattina De Biasi ha detto dovevo fare io il CT, poi all'ultimo momento sono stato scavalcato. Beh, ma quello perché ce l'aveva proprio in forza, detto anche a noi tipo un mese fa, sì, insomma. Però oggi aveva un pizzico, io in quell'intervista di oggi ho letto un pizzico proprio di, vabbè, sai, non quando, so, sei, certo, quando sei lì, quando si sei lì a correre, Montella, vi ricordate, si parlò di Montella, si parlò di un sacco di gente, chiaro. Una presunta raccomandazione, ovviamente, insomma, tutta da verificare, o comunque il fatto che potesse piacere perché era molto apprezzato dalla politica, se non sbaglio, ci fu anche questa polemica abbastanza paradossale in quei giorni. Quindi, voglio dire, ripeto, Conte fu un'anomalia. Poi si è preso un allenatore di buon livello, perché Ventura è un allenatore di buon livello, che veniva da un'esperienza comunque positiva a Torino, e adesso sta avendo dei problemi in un girone dove comunque non credo che l'obiettivo possa arrivare primi. L'obiettivo plausibile non poteva essere arrivare primi. Siamo dove dovevamo essere. Essere, diciamo che Italia-Macedonia, indubbiamente, soprattutto quello che ho sentito dire l'altro giorno da Buffon, e cioè che la partita con la Spagna ci ha fiaccato nell'autostima, ecco, questo diventa un problema. Non è un problema essere dove siamo oggi, con 20 punti a meno 5 ma la è Spagna, come ci siamo non arrivati. È un fallimento, è come ci siamo arrivati, è come siamo adesso. Io non voglio citare un amico, voglio citare un amico di questa trasmissione, Pier, Massimiliano Nerozzi, La Stampa, dopo Spagna-Italia scrisse, unico quel giorno lì, i senatori non hanno voltato le spalle, adesso sto banalizzando, a Ventura, e tra l'altro hanno detto che si sarebbe potuto perdere tranquillamente con la Spagna, ma non così, perché così finiva per incidere anche su ciò che sarebbe capitato nelle settimane dopo, che mi pare sia la posizione che oggi sta venendo a galla. Allora, 800 24 00 24, vi aspetto da qui alle 19. Voglio sapere cosa ne pensate di Ventura, sì o no al Mondiale, se ci andiamo, e di chi è la colpa del disastro Ferrari. Poi dopo le 18 facciamo un filo diretto proprio sulla Ferrari. Adesso c'è il traffico, poi ci sarà Alessandro Alciato e parliamo di Ventura. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Popolo dei Giasvegli, dei lavoratori, dei pensatori desti con il sorgere del sole, degli incolonnati vigili nel traffico delle metropoli. Sono Luca Telese. Vi aspetto con la rassegna stampa, le grandi opinioni, le interviste che fanno pensare. Non mancate. 24 mattino, tutti i giorni alle 6.30 su Radio 24. Convocati. Ventura, scusi, come mai stasera abbiamo pareggiato? No, non eravamo preparati. Ah no? No, abbiamo fatto, diciamo che abbiamo fatto 5 errori. 5 errori, sì. 5 errori. Da parte nostra, dei 5 errori, sì. E 5 cose che potevamo farle meglio. Quindi già in totale sono 10 errori. Sono già 10, Poi abbiamo giocato solo sulla destra, mai sulla sinistra, dove c'era Insigne. Saranno altri? 7 errori. Altri 7, siamo a 22. 22 errori. Non so se riesco a tenere il conto. Non eravamo preparati, poi ci metta che io non ho idea di come far giocare la squadra. Siamo già a 50-60 errori. Su 90 minuti la palla ce l'avevano sempre loro, noi arrivavamo sempre tardi. Tenga conto che io quando parlo negli spogliatoi non mi caga nessuno. Questa era Crozza, Pier. Fantastico. Sì. Sì, anche se quando un CT viene così, quando diventa uno sketch, non è mai una bella notizia. Trapattoni è stato uno sketch, dai. Osacchi, quante volte questi sono stati uno sketch? Non è quello il problema. Il problema è quando rimane solo lo sketch e non c'è nell'altro. Allora, vi leggo un po' di messaggi che stanno arrivando. Non andiamo al mondiale, questo è il massimo dell'ottimismo. Poi la tragedia non sarebbe non andare ai mondiali, ma andarci con questa nazionale con Ventura. La nazionale è questa, non è che possiamo cambiarla, anche se ci sono tanti infortunati. Poi su Twitter, io lo caccerei già prima dei playoff, anzi andava cacciato prima, secondo me. Se bruciamo un altro allenatore è un errore. Poi ancora Ventura da cacciare, ma dopo la partita con l'Albania al playoff è possibile comunque andare. Poi Ancelotti, e poi ancora la qualità si paga, hanno voluto risparmiare, questi sono i risultati, nazionale mediocre. Devo ammetterlo, ho votato Ventura, quindi ci sono anche i sostenitori di Ventura, e insomma questa è la fotografia oggi, ripeto, oggi, secondo me anche con un po' di ritardo, ma diciamo, aveva dei motivi personali. Tavecchio si è aggregato alla nazionale, volerà in Albania. Evidentemente la situazione è quella che è. Alessandro da Fermo, Alessandro, adesso aspettiamo anche Alessandro Alciato, eh. Alessandro? Salve, buonasera, buonasera. Un allenatore Ciao. Italiano che pagò 4 punti a Madrid è un pirla, un coglione, deve andare a fare adesso... le palle. Alessandro, bruciato nell'acido. Questa roba qui non si può dire. Siamo al nazismo gratuito. No, ma non hai. No, ma poi non si può proprio dire. Non si può proprio dire. Ci sono anche ascoltare. Ci sono altri con pardone. Sì, se uno vuole fare delle metafore, può trovarne sicuramente di migliori. Vediamo se ci riesce Raffaele da Napoli. Alessandro va direttamente in blacklist, amico mio. Per noi è no. Raffaele. Salve, buongiorno. Vai. Senta, io volevo dire solo una cosa. Qua parliamo di Ventura, dell'allenatore. La nazionale non funziona perché in Italia le squadre giocano con quasi tutti stranieri. Quando bisogna fare la nazionale, ma da dove le prende i calciatori? Mm. Il problema che sta in Italia, la Juve, la Roma, il Napoli, l'Inter, la Fiorentina, il Milan, quanti italiani giocano? Sì, però anche il Napoli, sì, che di fatto ha soltanto Insigne. Però ripeto, avevamo contro la Macedonia, Pier. Sì, no, poi questa qui è una vecchissima storia che riguarda ovviamente anche le altre nazionali, che ci sono paesi messi dentro di noi. Mi ricordo, insomma, Capello che si lamentava di questo tema quando era CT della nazionale inglese, e oggettivamente in Inghilterra sono ancora meno in percentuale di inglesi giocanti rispetto al nostro paese. Guarda, il paradosso è che secondo me invece noi stiamo attraversando un periodo non negativo, cioè noi abbiamo una crescita sicuramente di una nuova generazione di giovani, da questo punto di vista secondo me tra l'altro Ventura non ha lavorato male, gli deve essere riconosciuto. Il tema che riportavi prima di De Rossi è molto importante. Aspetta Pier, perché abbiamo 2 minuti non più di Alciato che sta per entrare in collegamento, poi ti faccio finire la risposta. Alessandro, ciao Ale. Ciao, buongiorno. Ci dici tu, che conosci da dentro le cose della nazionale, se il patto per il mondiale dei senatori è una sorta di autogestione, è l'inizio di un'autogestione? Potrebbe sembrare, in realtà è la concretizzazione della richiesta di aiuto che Gian Piero Ventura, proprio i senatori, aveva lanciato nello spogliatoio del Stadio Grande Torino pochi minuti dopo la terribile partita contro la Macedonia, perché il vero patto per il mondiale è iniziato proprio in quei momenti. Ventura prima, è vero, ha parlato con tutta la squadra per pochissimo tempo, poi però si è appartato con i senatori, si è appartato con Buffon, con Barzagli, con Bonucci, con Chiellini, e sostanzialmente a loro ha chiesto addirittura maggiore responsabilità, ma soprattutto ha chiesto aiuto, perché anche Ventura si è reso conto che il problema è molto, ma molto, ma molto più grave di quanto lui pensasse. Ma con l'Albania ci andiamo col 3-5-2 o poi arriverà dopo? Ci andiamo col 4-2-4, perché si parla anche del modulo che non piacerebbe? Beh, l'indicazione a oggi, contando anche quello che è stato provato in mattinata a Torino a porte chiuse, parla di un 4-2-4 con Buffon in porta. Ti dico quello che ha provato, poi ovviamente Le cose possono cambiare. Dicevo, con Buffon in porta, con Darmian e Spinazzola terzini, Bonucci e Chiellini centrali, perché Barzagli, come sappiamo, non è al meglio, Gagliardini e Parolo davanti alla difesa, e davanti da destra a sinistra Candreva, Immobile, Eder e Insigne. Questo in particolare ha provato stamattina, poi ci sono stati vari cambiamenti, però mi sembra al momento la formazione più probabile, con Immobile in campo dal primo minuto, nonostante la diffida. Lui, in caso di ammonizione, salterebbe l'andata dei playoff mondiali, però davvero questo non può essere il momento della paura di un cartellino giallo, ma bisogna vincere non per la classifica o anche per la classifica, anche per i 3 punti, ma soprattutto per dimostrare che quell'indegna serata di Torino è stata un episodio assolutamente, è già cancellata, è già non dimenticata, perché è impossibile da dimenticare, ma quantomeno cancellata almeno un po'. Ultima domanda flash, poi ti ringrazio e ti saluto. Oggi è arrivato Tavecchio, qual è la temperatura in federazione verso Ventura? Allora, io faccio un passo indietro a ieri, ti dico cosa mi ha colpito tantissimo. In un momento del genere, per un allenatore, fossimo stati in un club a Torino, ci sarebbero stati il presidente, il direttore sportivo, il direttore generale del club. Non è successo per la federazione ieri, perché ieri Tavecchio non era a Torino, perché stava festeggiando i 50 anni di matrimonio con la moglie e non era neanche la partita. Il direttore generale Michele Uva è stato a Torino fino all'ora di pranzo, poi è andato via, quindi un po'... Solo ci è sembrato ieri da questo punto di vista, Ventura. Qual è la temperatura in federazione? È stato confermato a parole sia da Uva sia da Tavecchio al telefono Giampiero Ventura, c'è però una paura abbastanza grande di non andare ai mondiali, perché anche per la dirigenza vale quello di cui vi parlavo per Ventura. Magari qualche problema è stato sottovalutato, la situazione è stata ritenuta più rosea rispetto invece a quanto poi è realmente. Quindi Ventura non rischia, Ventura sarà l'allenatore dell'Italia ai playoff mondiali e eventualmente ai mondiali se l'Italia dovesse qualificarsi, però anche in federazione non si aspettavano di arrivare a questo punto delle qualificazioni con una situazione del genere. Se tiene la pubblicità, sì, vai. Sì. Al volo, ma Ancelotti in questo momento, perché poi sai che qua facciamo i sondaggi, tanti vorrebbero Carlo eccetera, poi al di là delle scelte che fa la federazione, ma se ci fosse una telefonata della federazione dicendogli si comincia adesso da questo mondiale e poi fai altri due anni, sicuramente che fa? Risponde? Carlo o no? No, risponde per educazione, perché è un uomo molto, molto educato, ringrazia per educazione, perché lui l'Italia comunque ce l'ha dentro, è stato giocatore, è stato vice allenatore quando c'era Sacchi in panchina, ma direbbe di no, perché per lui non è il momento questo di allenare la nazionale, questo è il suo pensiero. Certo che sarebbe l'allenatore perfetto, ma direbbe di no. E poi non sottovalutiamo un aspetto, perché poi il romanticismo è bellissimo, ci vuole anche un lato economico, e prende poco più di 1 milione in nazionale Giampiero Ventura, Carlo Ancelotti, ma tutti i top allenatori del mondo viaggiano sopra i 7. Grazie Alessandro. Anche sopra gli 8. Sì. A voi. Grazie Alessandro Alciato, che lasciamo ai suoi collegamenti. Possiamo chiudere il sondaggio. No, ma noi non chiudiamo niente, certo. Piero. Però non è un dettaglio questo, non è un dettaglio, perché guarda che l'alternativa è fondamentale. Cioè, se tu devi, se voglio dire, se Ancelotti dice di no, l'ho fatta apposta questa domanda ad Alci e conoscevo in qualche modo anche già la risposta, a quel punto c'è? A questo punto non lo so. Infatti, ma è quello che ti ho detto prima, no, so. Tutti vogliono Ancelotti, ok, vogliamo Ancelotti, il problema è che Ancelotti non vuole, questo è il senso. E quindi a questo punto la cosa più sana e più saggia da fare. Però bisogna anche vedere, Pier, cioè, se noi arrivassimo a fine novembre qualificati, magari con delle prestazioni che ti portano, ma che aprono mille discorsi e mille scenari, che fai? La chiamata alle armi della patria azzurra, magari. Allora, facciamo così, ti faccio chiudere la risposta di prima all'amico da Napoli, Pier. Ti ho fermato su Giorginio, ma c'era la necessità incombente del collegamento, Pier. Sì, certo, quindi voglio dire, il discorso del fatto che ci siano tanti stranieri è un discorso vero, reale, che vale per tutti i campionati importanti, e noi in qualche modo lo siamo, anche se sicuramente valiamo meno adesso della Premier League e della Liga, però siamo comunque un campionato importante, pieno zeppo di stranieri, non sempre di grande qualità, e quindi ha ragione l'ascoltatore, però non basta secondo me per spiegare i problemi o gli impacci o le fatiche che stiamo avendo in questo periodo, quindi secondo me non giustifica, è un problema, è una situazione che c'era pure nell'epoca di Conte, che c'era pure nelle epoche precedenti, e non giustifica un pareggio contro la Macedonia e questo genere di fatica e di impacci. Allora, abbiamo la pausa, ci fermiamo. Dopo la pausa, annuncio, parliamo con qualcuno che quello che succede dentro una nazionale, una spedizione, è piuttosto informato. È Antonello Valentini, ha fatto tonnellate di mondiali ed europei, è stato dentro il gruppo azzurro per decenni. E quindi insieme a lui cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e quali sono gli scenari. 2 minuti e torniamo. Giochiamo il martedì, giochiamo il martedì, giochiamo il giovedì, giochiamo il giovedì, giochiamo il mercoledì, giochiamo la Coppa Italia, giochiamo la Champions League, giochiamo il campionato. Tutti convocati. Tutti convocati. Trajkovski in area di rigore. Trajkovski! E se lo merita la Macedonia il pareggio. Se lo merita. Se lo merita. Se lo merita. Se lo merita. A parte che gli anni passano per non ripassare più. Gli danno un po' fastidio i discorsi sul mondiale, paura, non paura di andare, eccetera. Con lei però fa paura ai giocatori? Questo mondiale si avvicina, questo playoff che si avvicina? Ma dirlo tutti i giorni, sicuramente penso che la palisse direbbe che è ovvio. Questa è l'unica cosa su cui non ci posso fare niente. Niente paura, niente paura. Un po' di strizza secondo me ce la devi sempre avere nel calcio, no? Perché l'importante è non aver paura di fare le cose che proviamo. Niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Oggi sei più preoccupato di non andare al mondiale dopo questa partita? No, sono un po' deluso perché comunque è una partita che era importante vincere, anche 1-0, anche comunque non essendo bellissima, era importante fare 3 punti. Perché se ci stanno, siamo delusi noi, mi sarei dato uno schiaffo io per aver pareggiato. A parte che ho ancora il vomito per quello che riescono a dire, non so se sono se cominciamo a piangerci addosso e a credere veramente che qualcuno remi contro, che da fuori il clima non è dei più positivi, così siamo dei perdenti. Allora, io non so se voi avete paura o no di non andare al mondiale, io un po' ce l'ho, perché quando le cose vanno su un piano inclinato non sa mai dove vanno a finire. Carissimo per Luigi Pardo, ma non sto facendo pessimismo, poi tutti noi speriamo che non sia così. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo che dopo le 18 c'è il filo diretto sulla Formula 1 con il professor Terruzzi, dovete dirci di chi è la colpa del disastro rosso delle ultime 3 domeniche. Invece qui c'è Antonello Valentini, che saluto e ringrazio per aver accettato Antonello. Il nostro invito. Ciao, grazie a voi dell'invito. Allora, io voglio chiedergli, quante volte nella sua lunghissima esperienza dentro la federazione a contatto con la nazionale ha sentito il capitano, come abbiamo sentito l'ultima clip era quella di Buffon, dire sostanzialmente al suo allenatore, perché era il suo allenatore che evocava le critiche esterne e tutto, se si fa così si parla da perdenti? Ma guarda, momenti di confronto ce ne sono stati tanti in nazionale. Questa volta voi avete parlato di paura, io ho visto una squadra impaurita e questa è la cosa che più mi preoccupa, anche se pur condividendo e sottoscrivendo tutte le critiche che sono state rivolte alla squadra in questi giorni, è obbligatorio avere fiducia. Forza Azzurri, dobbiamo andare al mondiale, sarebbe, chiamatela come volete, incubo, tragedia, catastrofe, apocalisse, disastro, come sì, volete, sì. Sarebbe un contraccolpo gravissimo per tutto il movimento sportivo italiano, non soltanto per il nostro calcio. Detto questo, io credo che Buffon, che tra l'altro apro e chiudo una parentesi, è l'unico tra quelli che stanno in campo e in panchina ad aver vissuto un'esperienza analoga, perché è l'unico che nel 97 ha giocato, entrando a Pagliuca a Mosca, il playoff drammatico per la qualificazione ai mondiali del 98 con Cesare Maldini, commissario tecnico. Una partita che si giocò con un pallone arancione perché nevicava che Dio la mandava. Pareggiammo con un gol di Vieri, raggiunti poi nel finale da un altro gol di Cannavaro, e poi vincemmo a Napoli. Quindi Buffon si è assunto, come sempre, avendo gli attributi, e questo non gli si può negare, si è assunto la responsabilità di tirare un po' le orecchie a tutti. Non mi è piaciuto molto, lo devo dire con grande serenità e con grande realtà e con grande franchezza, che da questo confronto sia stato escluso il commissario tecnico. Ecco, certo, questo è un aspetto che francamente a me non è piaciuto molto. Beh, Antonello, vaso di coccio, vaso di coccio. Non ho capito, scusa. Com'è possibile anche una cosa del genere? Ma probabilmente Ventura si è reso conto che Maiora premut, come si dice, come direbbe Rotino. E vabbè, allora non allena più, cioè, abbi pazienza. Era troppo importante, la posta in palio è troppo importante, perché la squadra aveva delle assenze di peso, Verratti, De Rossi, Belotti, Florenzi, speriamo di recuperare anche Marchisio, ma aveva anche delle presenze di scarso peso, perché quando si in una partita del genere si buttano in campo Gagliardini e Verdi, una presenza in nazionale prima di venerdì in un amichevole, no, un minuto della... non una presenza, perdono, un minuto, diciamo una presenza in Olanda in un amichevole, 0 presenze sia Gagliardini che Verdi in campo internazionale con le squadre di club, vuol dire che probabilmente c'è qualche cosa che non si è capito bene. Ecco, io il rappunto che faccio affettuosamente, stimandolo molto, a Ventura, e gli avevo anche detto personalmente, è che lui non è solo colpa sua, non si è ancora calato perfettamente nel ruolo del commissario tecnico della nazionale italiana, non ha capito bene, e nessuno lo ha aiutato a capire, dove sta, con chi ha a che fare e che cosa può fare. Posso, perdonatemi, essere un po' cattivo su questo tema, cioè quello che doveva fare questo compito sta in Cina ed è Marcello Lippi? Antonello, ma vabbè, sai, no, il progetto era quello, non è che ce lo stiamo inventando, ma certo, noi. Ma un progetto abortito perché? Per chi? Voglio dire, e per le regole, perché se ne poteva scegliere un altro, non lo so. Stesso, scusami, Antonello, perdonami. Ma allora, detto tutto questo, detto anche il fatto che oggi sulla prima pagina della Gazzetta, guarda caso, cioè, le memorie di Pirlo con Conte bastavano 20 minuti ed è lì che torni sempre a parare, perché è chiaro che venire dopo Conte era fatale che fosse così. Conte era un uomo forte, Ventura in questo momento è un CT debole. Allora c'è la riunione dei senatori, magari chissà quante ne hai viste tu, con le scuse, dai, è inutile che sorridi perché lo sai, però confermo. A quel punto lì che cosa succede? Chi fa la formazione? Consegni la velina alla commissione dei senatori? No, ma perciò ti ho detto che non apprezzo per niente, non condivido l'esclusione di Ventura da questo confronto, che deve essere un confronto sempre reale, aperto, anche aspro se necessario, perché l'obiettivo è veramente significativo questa volta. Ma escludere il commissario tecnico, secondo me, non è stata una bella mossa. Probabilmente Ventura ha accettato, ha abbassato, voglio dire, il capo di fronte a questa richiesta, perché l'ha autorizzata lui poi la riunione, ci mancherebbe. Però in questo momento, amici miei, io ve lo dico forse perché mi porto la nazionale nel cuore da 27 anni e per me la nazionale viene prima di ogni cosa, condivido e sottoscrivo tutte le critiche, come ho detto prima, però punto a capo, aiutiamo Ventura, come scrive oggi Luigi Garlando sulla Gazzetta, aiutiamo Ventura e la nazionale a superare questo momento e ad andare ai mondiali da testa di serie, perché tra l'altro se non vinciamo in Albania rischiamo di non essere testa di serie. No, ma allo spareggio, perché ai mondiali non saremo testa di serie praticamente, no, con nessuna delle combinazioni. Ai playoff, no, ai playoff di al mondiale purtroppo non c'è possibilità, non se ne parla proprio, ma ai playoff cerchiamo di andarci come testa di serie, anche perché la testa di serie per regolamento hanno il diritto di giocarsi la partita di ritorno in casa. Quindi voglio dire, attenzione, perché sono tutti dettagli che contribuiscono a formare il quadro della situazione, e rischiamo invece, se non siamo testa di serie ai playoff, di avere avversari molto molto spigolosi, ostici. Rischiamo quel piano inclinato di cui parlavo prima. In quel famoso playoff del 97 per i mondiali del 98, il clima com'era? Dacci una speranza, tu prima hai parlato di un clima drammatico, mi ricordo ovviamente la neve. No, senti, il clima era straordinario, perché io lo ripeto sempre con grande affetto e grande, come dire, impianto, Cesare Maldini è stato sempre sottovalutato sia come tecnico che come uomo, era un uomo capace di caricare la squadra alla grande, anche se in quella squadra, non ci dimentichiamo, c'era gente che si chiamava Cannavaro, Dino Baggio, Albertini, Paolo Maldini, Del Piero, Vieri, Ravanelli, cioè voglio dire, stiamo parlando di non era una nazionale scarsa. Ecco, così, noi invece continuiamo noi invece in Italia continuiamo, questo non lo dico io, è palese, dico una cosa scontata, ad allenare e a valorizzare anche mezze calze di altre nazionali, confinando in panchina da spettatori privilegiati tanti ragazzi italiani. Sì, questo è un tema che battono molto anche da casa i nostri ascoltatori. Poi ripeto, Florenzi si poteva convocare per giocare contro la Macedonia, non l'ha detto il dottore che Florenzi era fuori. Ma perciò ti dico che secondo me nessuno è stato ha lasciato solo, è stato lasciato solo a capire dove sta e che cosa si rischia in quel ruolo, perché quando stai su un pennone così alto tira vento e fa freddo, non c'è spazio per i permalosi, perché i giornalisti fanno e devono fare il loro mestiere, quindi non c'è spazio per allungare il muso o mettere il broncio, e bisogna capire dove si sta. Quindi ci sono delle occasioni in cui non si tratta di lanciare i giovani, si tratta di affidarsi a gente che ha esperienza internazionale. Ventura aveva dall'inizio, e lo sappiamo, un compito difficilissimo, cioè quello di ringiovanire la nazionale, quel ricambio generazionale dettato dall'anagrafe, non certo da me, da o da voi. Però ecco, io avrei usato una maggiore gradualità, soprattutto in occasioni come quella dell'altro giorno. Grazie Antonello. Ciao Antonello. Grazie a voi, ciao, buon lavoro, prossimo. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Hai capito, carissimo Pierre. Due o tre concetti sono passati, Due o tre concetti. Guarda, io è un po' quel discorso che facevo anche prima, cioè, nel senso che dal punto di vista della valorizzazione dei giovani si sono viste anche cose interessanti in questi anni. Però poi è ovvio che se non vai al mondiale è uno tsunami. Adesso ci ricordiamo cos'è stato la ciliegina, ma non c'è la torta. Certo, cos'è stato il mondiale 2014 alla fine, che di fatto ha ribaltato tutto. Allora, abbiamo il traffico. Io saluto Pierre che ci lascia. Ciao. Lo ritroviamo domani dopo il GR delle 14. Abbiamo Massimo da Milano 800 24 00 24, e ripartiamo da lui. Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica zero deleghe, tutti convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Tutti convocati. Allora, io saluto Franco Ordine, ciao Franco. Eccoci qua. Allora, adesso parliamo anche del Milan, perché oggi abbiamo scoperto dai giornali che Berlusconi ha chiamato Fassone per fare la pace dopo le cose uscite ieri sul Corriere della Sera. C'è però che ci sta aspettando Massimo da Milano. Massimo. Ah, buongiorno. Vai. Senta, niente, sulla nazionale, non mi piace chiamare questa nazionale mediocre, benché meno scarsa, però forse dovremmo essere realisti, perché i nostri giocatori, quelli che sono in nazionale, sono bravini, ma diventano bravissimi quando Insigne ha vicino Martins, quando i centrocampisti che giocano in campionato, a parte De Rossi, ditemi chi c'è di italiano di livello che possa competere con le nazionali importanti che troveremo al mondiale. Insomma, Verratti non è forse... mica scarso, cioè Verratti gioca nel Paris Saint-Germain con Neymar, Mbappé, Cavani. Certamente, però noi giochiamo, cioè abbiamo quante squadre abbiamo? Sì, però il tema, Massimo, è che venerdì sera giocavamo con la Macedonia, adesso ce la facciamo con la Macedonia? Cioè, Franco, ce la facciamo, no? Cioè, dovevamo farcela, giusto? Allora, vedo che hai mollato i pappafichi sul carro di io Venturi. Continuo a difenderlo, sai che non scendo mai dal mio carro, perché abbiamo avuto la discussione la settimana scorsa, io resto lì, che è una follia pensare di cambiare Ventura. Però venerdì sera lo spettacolo è stato quello che è stato. Cambiare no, perché ormai il danno è fatto, cosa vuoi cambiare più? Il punto vero è che io non discuto tanto le scelte, perché obiettivamente in questo momento mi sembra più evidente quello che è accaduto nelle ore passate, e cioè il fatto che ci sia stato un confronto molto aspro su questioni squisitamente tecniche e tattiche tra il CT e i componenti del nucleo storico, e secondo me la conferma che c'è stato un cortocircuito tra il selezionatore e i suoi giocatori. Questa è la cosa più evidente, e devo dire anche la cosa più grave, accompagnata a quelle frasi sgradevoli nei confronti di Conte e di Prandelli, nei confronti dei quali dovrebbe avere il massimo rispetto per i risultati che hanno collezionato. Sì, e ovviamente il riferimento era al ranking, che numericamente non è sbagliato il discorso, perché il mondiale del 2014 pesa, perché le amichevoli perse nella prima fase e non da Ventura con Conte pesano, però ci fermiamo qui. Era meglio andare oltre. Il ghiaccio agli eschimesi, perché lui ha fatto i risultati, li ha fatti con la Macedonia, l'Albania e Israele. Non si può paragonare a Prandelli, che è arrivato in finale. Stavo facendo il discorso del ranking. Il ranking è una questione numerica, come quando si dice l'Europa League conta meno, non è vero, conta come la Champions, e aveva sbagliato l'Europa League per tanti anni, alla fine ci ha danneggiato. Però vogliamo sapere da Franco Ordine se è vero che Fassone e Berlusconi hanno fatto pace. Io non so se hanno fatto pace, io so soltanto che Berlusconi, che è una persona educata, ha chiamato Fassone per fargli sapere che quella non era un'intervista, ma era soltanto una, uno sfogo, una chiacchierata da tifoso fatta con alcuni amici e che qualcuno ha poi riferito al collega Francesco Verderami, che giustamente l'ha riportata in prima pagina sul Corriere della Sera. La cosa che più mi inquieta è che se Fassone davvero c'era rimasto male, ma scusatemi, ma non è stato mica Fassone che subito dopo la partita della la sconfitta di Genova con la Sampdoria è andato davanti ai microfoni di Sky, ha tirato delle martellate. Però le critiche erano più profonde, però Ciccio, scusa, è chiaro che il peso specifico delle parole di Berlusconi sul Milan conta ed è elevato, così come il peso specifico delle parole di Moratti sulla opinione pubblica interista conta, perché è così, e quindi non si può dire è un tifoso qualunque che è arrabbiato. No, io mica sto dicendo che è un tifoso, io non ho mai detto che è un tifoso qualunque, ho detto che Fassone è l'unico che non si può lamentare, perché il primo a prendere a martellate la panchina di Montella è stato lui. Quindi vedo, rimanete senza obiezione, l'obiezione che gliela impone, l'obiezione è che la critica di Berlusconi era al fondo della struttura, era la scelta di Montella, era il mercato, era la scelta di spendere 230 milioni senza un top player, era la fascia a Bonucci, bandiera della Juventus, insomma, erano anche un po' più profonde le critiche. Non parlare della situazione economica della proprietà, ma su questo è inutile andare avanti, Franco. Allora, sono stati questi tutti argomenti che sono stati dibattuti in maniera notevole nelle settimane precedenti. Allora, Boban e Shevchenko sono stati i primi a dire questo mercato non ci convince, hanno preso giocatori di buon livello ma non top player. Uno. Due. Sì, ma non sono Berlusconi, Franco. Esatto, non sono Berlusconi, Ciccio. Con tutto l'amore che i tifosi del Milan hanno per Shevchenko e Boban. Ho capito. Allora, scusatemi. Allora, se voi mi dite che Berlusconi ha convocato un giornalista e ha fatto un'intervista su questo argomento, allora sono d'accordo con voi. Anche se noi dobbiamo discutere di questo, non del fatto che siccome ha parlato Berlusconi non doveva parlare perché adesso non ha più diritto di parlare del Milan. Questo è il punto, che è la campagna che sta prendendo piede qui a Milano e ha diritto, ha diritto. Allora, Franco, facciamo così, ti rimandiamo in settimana perché abbiamo il GR, ma ne torniamo sull'argomento sull'argomento Milan. Allora, Franco Ordine è riconvocato in settimana. Ciao Franco. Ciao Ciccio. Un saluto, ciao. Buona ciao. Serata. Abbiamo il GR 800 24 00 24, poi parliamo di Formula 1. Dovete dirci di chi è la colpa del disastro rosso. Dai, dovete dircelo. Marchionne arriva bene, Vettel la sfortuna. Dai. O nessuno. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Soundcheck, il suono della musica, di DJ Telesforo. Ti aspetto allora al Soundcheck di Radio 24 il sabato e la domenica a partire dalle 19:15, in collegamento con The Groove Master Studio per un pieno di grande musica. Tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. Tutti convocati. It starts with aspetta, problemi, incredibile situazione per la Ferrari. Subito nel primo giro era troppo anomalo quel sorpasso di Verstappen, così tira i due per lui, lo chiamano ai box, ritirano la macchina, colpo di scena clamoroso. Si tratta di un componente, una candela che si è rotta, insomma, la bobina. La macchina macchina, al di là dei componenti che ultimamente ci hanno lasciato a piedi, una macchina buona. La squadra è giovane, è motivata. Si riparte innanzitutto girando pagina, motivati, facendo delle analisi precise su quanto è successo e tornando a Austin decisi a giocarcela. Anche se ad Austin Hamilton può vincere il mondiale. 800-24-0024, apriamo questa pagina dedicata alla Formula 1 e all'alba di Suzuka, che ha cancellato, come tutte le albe che si comanda, insomma, ha cancellato il sogno mondiale della Ferrari. Professor Teruzzi, buonasera. Buonasera a lei. Bisogna dire che la Ferrari di oggi va meno bene della celebre 312B, che da domani a mercoledì è nei cinema con un film dedicato, e che è la Ferrari che dominò per un quadriennio, Giorgio, cui tu hai dedicato un film e aiutò, insomma, la Ferrari ad uscire da un momento un po' così. No, un momento piano, io ho fatto la comparsa, ho risposto a delle domande, non è che ho fatto il film, insomma, però e poi secondo me questa macchina qui non è da meno, secondo me non è detto che non apra un ciclo. Può essere paradossale dirlo oggi, ma è probabile che accada. Ma io infatti è lì che voglio arrivare, Giorgio, perché secondo te ha un senso, come proviamo a fare oggi, perché è sull'onda dell'emotività nel giorno in cui perdi un mondiale, è fatale quasi, ha un senso la ricerca di un colpevole, punto, cioè di un capro espiatorio, non di per il mondiale che ha perso, ma per cosa è successo nelle ultime tre gare. Però attenzione, per il come all'inizio del mondiale avremmo detto di una Ferrari che arrivava a quest'ora a incazzarsi perché hai perso il mondiale per una candela o perché la macchina non parte o perché ti bocci come è successo 3 settimane fa. Insomma, ha senso la ricerca di un colpevole? Noi stiamo chiedendo di chi è la colpa, Giorgio. Non c'è colpa, a parte che è la prima volta che c'è una candela oscura invece di illuminare, ma comunque il colpevole non c'è, nel senso che io penso che Mattia Binotto abbia fatto un miracolo, nel senso che se vi ricordate lo scetticismo, le cose che ci sentivano dire l'anno scorso, cioè questa qui è una macchina con un gruppo di tecnici anonimi, senza stelle, che ha cambiato passo perché rispetto alla Ferrari degli anni passati, cioè ha tenuto in piedi. Paradossalmente in queste 3 gare dove la Ferrari ha perduto la sfida, 2 volte su 3 era la macchina più veloce in pista, ma non casualmente, nel senso che c'è un rendimento aerodinamico, una crescita del motore, poi secondo me, dovendo recuperare un secondo e due, un secondo e tre, questi erano i distacchi dell'anno scorso, da una squadra come una Mercedes, ci sta che magari per la volata, per le ultime gare, chiedi un po' tanto, un po' troppo, però si sono rotti dei pezzetti, delle cose che sono magari sono delle minutaglie, non è che però tu mi insegni che in Formula 1 l'affidabilità è non tutto, sì, ma è buona parte del giudizio che si deve dare su una macchina, cioè sì, non è un errore di prospettiva dire peccato la Ferrari era superiore, l'ha fatto anche Marchionne quando ha parlato nei giorni scorsi, e poi la componentistica non era di livello. Non è che invece nel momento in cui ti esprimi, Giorgio, non è che nel momento in cui invece ti spingi all'estremo limite superiore delle tue possibilità diventi vulnerabile? No, sto dicendo che allora stiamo parlando di una squadra che ha perso il mondiale, che perde il mondiale, però io preferisco una squadra che perde il mondiale così piuttosto che una macchina affidabile che becca mezza pista tutte le gare. Certo. Certo. Secondo me il prezzo sta dentro un percorso, una realtà, e secondo me trattandosi di realismo, cioè di qualità vera, cioè questa qui è una macchina che non patisce più, non perde più aderenza sul lento come le Ferrari di tutte le Ferrari passate, è una macchina che sul motore non ha handicap, cioè sto dicendo che per me va bene, c'è cioè un passo avanti. Va anche, bene così. E stiamo parlando di una squadra che ha perso il mondiale. Cioè, c'è dentro anche questo. quelli là sono più bravi, sono più forti. C'è dentro anche, lo dico, nel bilancio che verrà fatto a fine anno, due errori piuttosto rilevanti del pilota, cioè ci sarà il modo di fare, di tirare una riga a fine stagione. Cioè, che sono gli errori? Sono Baku e Singapore. Singapore non è l'errore nell'incidente, secondo me, nella dinamica dell'incidente, è un errore di impostazione mentale, che il problema di Vettel a Singapore era Hamilton, non Verstappen. Ma comunque ci sta, cioè ci sta che un pilota che dà tanto, che fa molte gare d'attacco senza sbagliare, in un anno sbagli. Sto dicendo che anche Vettel, così come la macchina, per fare quest'anno così, insomma, ha dovuto tirare tutto l'anno. Se misuriamo Vettel da Raikkonen, forse qualche dato viene fuori, no? Cioè, sì. Poi magari ci chiediamo anche, ma non è una battaglia personale, allora perché la Ferrari debba avere una seconda guida che dà il contributo di Raikkonen, mentre ad esempio la Mercedes si è inventata Bottas è a 13 punti dal secondo posto nella classifica mondiale, eppure è lo scudiero perfetto, l'abbiamo visto anche oggi a Suzuka. Abbiamo il traffico, c'è Alessandro dalla provincia di Siena, io chiedo ancora un attimo di pazienza a Giorgio Terruzzi perché poi proseguiamo su questo argomento. E cioè la domanda non è tanto se è negativo o positivo il bilancio della Ferrari in questa stagione, perché è certamente positivo ripensando da dove si partiva, ma è accettabile che nel momento della verità di fatto Vettel non sia riuscito a fare che qualche centinaio di metri in tre gare? È questo il tema. Torniamo subito al traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Sondaggio sempre aperto sulle colpe, se ci sono colpe del disastro delle ultime gare della Ferrari. C'è chi scrive Marina, chi traballa arriva bene, Silvano porta sfortuna Marchionne. C'è chi se la prende con la Ferrari low cost nella componentistica, ma io non credo sia questo il tema. Alessandro dalla provincia di Siena, c'è Giorgio Terruzzi con noi. Alessandro, buonasera. Vai. Allora, innanzitutto grazie per avermi dato questa possibilità. Grazie di a te parlare. Per aver atteso a lungo. è vero, ma ne valsa la pena, perché sto parlando con voi e con Giorgio Terruzzi, che stimo tanto. Ha già detto una cosa meravigliosa, quella della candela è una perla, grazie. E io vi chiamo da tifoso deluso, ma veramente tanto deluso, e sicuramente andrò a vedere il film sulla 312, perché quello me l'ha insegnato mio papà, è una tradizione, una cosa importantissima, la Formula 1, il motore, insomma siamo affezionati. E per dire chi ha la colpa, io vorrei, senza populismo, senza fare finte accuse, direi che la colpa è la nostra. Perché ancora crediamo che questo sia uno sport e ancora guardiamo questo circo. In realtà si stanno divertendo soltanto loro, e non capisco perché a volte fanno anche rischiare la vita dei piloti. Per cui ha ragione Terruzzi quando dice che Vettel ha fatto due errori, perché è un'analisi perfetta. Scusami, non ho capito benissimo, si divertono solo loro e loro chi? Soltanto loro, perché vanno in giro per tutto il mondo, si divertono, portano avanti il loro bel circo. Sì, ma tu dici così perché sei tifoso della Ferrari e oggi sei deluso. Mi dispiace, ma io credo che l'affermazione della Red Bull, vogliamo essere l'ago della bilancia, e succede quel macello con un ago della bilancia che picchia a destra e picchia a sinistra, questo è significativo di come... Sì. Ecco. Posto che destra e sinistra si sono anche un po' picchiati da soli, se stai parlando di Singapore, però ti facciamo rispondere da Giorgio Terruzzi. Giorgio. Beh, insomma, non ho ben chiara la domanda. Allora, io neanche, a dire la verità, si divertono solo. Beh, si divertono ma fanno il loro mestiere. Credo ci sia la profonda delusione, no, che oggi è il sentimento dominante. Allora, farvi capire che c'è un paragone fatto tra l'atmosfera degli anni del film e oggi, che forse effettivamente è un mondo un po' più freddo, più tecnologico, è vero, no? Poi si divertono solo loro, però siamo qui a parlarne, quindi l'abbiamo. Ci divertiamo anche noi, a parte per l'ora della sveglia. Ti lascio con questa domanda diretta: Quanto è lontana la Ferrari dalla Mercedes, ma proiettandoci soprattutto sull'anno prossimo, visto che poi per colmare definitivamente quel gap, la verità è che la Ferrari non è riuscita a restare in pista, Giorgio? No, allora la risposta si connette anche alla domanda che mi avevi fatto prima. Cioè, noi qui abbiamo a che fare con uno sport di cui non sappiamo molto, cioè non sapremo mai esattamente che cosa è accaduto, quale pezzo, perché. Cioè, se è un problema, per esempio, di una partita difettosa, cosa che succede ogni tanto, successe con Schumacher, se vi ricordate, e Massa, una partita di BL, motori che arrostivano, perché vengono fatti dei controlli di qualità dai fornitori a casa, non è una questione di, come ha scritto quella ragazza, non so, quel ragazzo, economia. Sì, componentistica low cost. Ma no. Cioè, la cosa che conta è capire se tutto questo è frutto di un percorso che con questo bilancio amaro però si chiude e quindi resta una qualità preservata, oppure se c'è sotto qualcos'altro, qualche fragilità che noi non sappiamo. Secondo me, per chiudere, rispetto alla Mercedes c'è ancora il nostro dubbio a fronte di tutto questo, che è legittimo, rispetto a un gruppo di lavoro che in questi anni rassicurato di più i propri tifosi. Le rassicurazioni sono arrivate quest'anno sulla prestazione, vedremo se in che termini arriveranno anche sull'affidabilità dentro la prestazione. Che è forse a questo punto consideriamo il salto per riuscire veramente a poter arrivare fino in fondo. È una macchina che può garantire un futuro. Mm. Per la prima volta è la sensazione che sia una macchina che possa garantire comunque un futuro ai tanti tifosi della Ferrari. Mi sembra che il senso di tutto stia in questo. No, sì. Può essere a patto di analizzare bene che cosa è successo in queste gare, non noi, loro, ovviamente, perché noi, ha ragione Giorgio Terruzzi, sappiamo quello che riusciamo a capire e a sapere di che cosa succede sotto il cofano di una macchina di Formula 1. Grazie Giorgio. Ciao Giorgio. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Buon lavoro. A noi resta quella cosa lì di una macchina che per due settimane di fila si ferma prima di partire, e questo ovviamente fa venire delle domande. 800 24 0024, vediamo aggiornamenti anche su che cosa succede, perché sono cominciate da circa mezz'ora le partite delle 18 dei gironi europei di qualificazione mondiale di Russia 2018. Vince 2-0 la Polonia con il Montenegro. Alla Polonia basta un punto questa sera per essere certa della qualificazione aritmetica al mondiale. Claudio da Udine. Claudio. Buongiorno. A proposito di nazionale, due cose. La prima è che, rispondendo anche agli ascoltatori precedenti, la carenza di giocatori italiani nel nostro campionato risaliva anche a poco più di un anno fa, quando sì, battevamo la Spagna 2-0, battevamo il Belgio 2-0, ci qualificavamo quasi all'Europeo, certo sì. E la seconda considerazione è che sempre di più è importante la figura dell'allenatore nel calcio, soprattutto nel calcio di oggi. Mi spiegate perché Ventura, io non riesco a capire perché Ventura gioca sempre con pochissimi centrocampisti di ruolo, ne fa giocare due al massimo e siamo sempre in inferiorità numerica. Nell'ultima partita con la Macedonia lui diceva che giocava con cinque centrocampisti, ma gli altri tre, a parte Parolo, a parte Gagliardini, gli altri tre erano tutti esterni, tutti terzini, cioè non... Perché questo è il suo calcio, è quello che lui ha sempre fatto, ha fatto anche nel Toro, perché con la Macedonia c'era il problema oggettivamente di tante assenze a metà campo. Questo non è un alibi, ma è una considerazione che è giusto portarsi dietro, forse l'unica, rispetto a tante cose che sono state dette. Resta poi che, ripeto, con la Macedonia, numero 103 del ranking, doveva bastare anche quello per riuscire a non fare la figura dell'altra sera. Gianluca da Bergamo, Gianluca. Ciao, buongiorno a tutti. Vai. Allora, io ho due considerazioni veloci. La prima è che secondo me bisognerebbe recuperare qualche giocatore che ha un attimo un po' più di esperienza a livello europeo. Sto parlando di Giovinco in questo caso, che so che negli Stati Uniti sta facendo un gran successo. Io me lo terrei comunque in panchina per risolvere certi tipi di partite. È uno che su punizione segna, è uno che si propone bene al gioco, è uno che fa assist. E la seconda considerazione, ovviamente, Macedonia, abbiamo detto 103 del ranking FIFA, c'è da dire anche una cosa: l'Italia mancava tutto un centrocampo, abbiamo una difesa dove Bonucci, perno della difesa, fuori forma. Avevamo uno Spinazzola che ha giocato forse due partite quest'anno, la seconda quella nazionale. Quindi diciamo l'Italia veramente. Spinazzola adesso sta giocando, però Non, cioè, il discorso era valido per la trasferta in Spagna, sì. Sì, però il tema è, non è tanto nella valutazione di chi c'era o chi non c'era. Ci spiegava Antonello Valentini prima, e conosce da dentro come funzionano le cose nel gruppo della nazionale. Se un CT viene lasciato solo in un momento di difficoltà, in un momento forse anche di confusione nel fare alcune scelte, c'è un problema più complesso da gestire. Oggi si cerca la risposta affidando tutto ai senatori, perché questo è quello che emerge e dalle ultime 24 ore. Non è detto che nemmeno questa sia la strada, però almeno è una strada. Sì, però almeno è una strada, però continuo a domandarmi e a chiedere quello che ho chiesto prima ad Antonello Valentini: quando c'è un commissario tecnico così debole nei confronti della commissione con la K dei senatori, a quel punto chi fa la formazione? A quel punto esiste un allenatore? È chiaro che data riunione di ieri con un CT praticamente esautorato, poi gli assenti hanno sempre ragione, vale Giovinco per rispondere all'ascoltatore come valgono tutti gli altri. Sì, di Giovinco segnalo che anche Conte comunque non l'ha portato. Dai, Giovanni, è chiaro che in momenti difficili chi manca ha sempre ragione, chi manca è quello che doveva esserci, quindi sono anche i discorsi che lasciano il tempo che trovano. Poi è anche vero, come sottolineavi tu, che i Verdi e compagnia cantante che in nazionale hanno giocato pochissimo tempo, forse non era il caso di sperimentarli in situazioni così difficili. Detto questo, è chiaro che i senatori all'ultimo ballo hanno il pallino in mano, ed è forse è in parte giusto così, però almeno che sia un confronto che non sia una egemonia dei senatori stessi. Intanto Inghilterra in vantaggio in Lituania 1-0, gol su calcio di rigore di Harry Kane, 27esimo del primo tempo. Vince l'Armenia in Kazakistan, vince soprattutto la Polonia contro Montenegro 2-0, Polonia che con questo risultato va diretta ai mondiali, Montenegro che viene eliminato, il che significa che nell'urna delle seconde va la Danimarca. Giuliano da Treviso, Giuliano. Buongiorno. Senta, bene o male avete detto le cose che pensavo, cioè che sarà sotto tutela stretta il commissario tecnico e anche con l'aiuto, credo, della federazione. Tutto sommato, tutto tace sotto, però sarà così. Ed è un bene o un male? Non riesco a capire secondo te. Secondo me è un bene, perché credo che Ventura abbia dimostrato che abbia dei limiti, insomma, ecco. Ma soprattutto dal punto di vista tattico e anche delle... in confronto alle partite che ha giocato. È un bene avere una panchina commissariata, mettiamola così, per essere chiari. Direi di sì, sia una situazione che non sia proprio il massimo della vita. È uno scenario che trovo inquietante se poi si va al mondiale. Allora, se vogliamo farlo per l'emergenza, per andare al playoff, per andare al mondiale, magari ne possiamo anche discutere. Ma poi cosa facciamo? Affrontiamo il mese e mezzo del mondiale in queste condizioni? Ci fermiamo, dai, c'è la pausa, torniamo 800 24 00 24, parliamo anche di quello che sta succedendo in Sud America, perché scriveva prima un amico: se dobbiamo piangerci addosso noi, cosa devono fare gli argentini o anche i colombiani, che si sono visti smaterializzare la qualificazione in due minuti a cavallo del 90esimo. Torniamo con Enzo Palladini, collega di Premio. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Nos tocó esto, hay que affrontarlo, enfrentarlo y seguramente con, como decía antes, con la convicción que como lo hizo el equipo hoy. Vamos a ganar el Ecuador. Era un partido que se podía matar fácilmente, pero hoy es que todo lo que digamos ahora en este momento no tiene sentido. Son muchísimas situaciones que podíamos haber hecho mejor. Ahora hay que aprender de estos errores, porque para nuestras carreras es muy difícil, y ya esperamos mañana enfocarnos en Perú, porque dependemos y hay que ir a ganar. Brian en el centro, Brian en el centro, cabezazo, el Mundial. Meraviglioso, eh? L'ultimo c'entra poco con il Sud America, ma il gol che al 95esimo questa notte ha spedito il Costa Rica per la quinta volta nella fase finale del mondiale gol al 95esimo. Bello del calcio, è bello del calcio, dai, meraviglioso per questo. Già. Allora, saluto Enzo Palladini, collega di Premium, autore è da pochi giorni nelle librerie di Dimmi chi era Recoba, edizione in contropiede, profondo conoscitore di tutto ciò che è il calcio sudamericano. Ciao Enzo. Ciao. Ciao, ciao, buonasera a chi ci ascolta. Allora, do un paio di aggiornamenti perché sono successe cose importanti nei gironi europei. Due gol, Slovacchia 1, Malta 0, gol di Nemez, e soprattutto Slovenia 0, Scozia 1, gol di Griffith. Con questi due risultati in questo momento Scozia seconda e quindi potenziale avversaria dell'Italia. Enzo Palladini scriveva prima un amico: se noi ci piangiamo addosso, cosa devono fare gli argentini? Fucilare San Paoli mercoledì mattina, se dovesse accadere l'irreparabile? Non hanno tutti i torti, cioè, non fucilare nessuno, questo no, sia chiaro, però mediaticamente. Sì. Sì, non hanno tutti i torti, perché comunque non ne sta azzeccando una San Paoli. È un allenatore demagogo, purtroppo il problema è questo. L'altra sera ha fatto giocare alla Bombonera Dario Benedetto centravanti, lasciando in panchina e facendo giocare 0 minuti ai Cardi e Dybala, che possono anche non essere al 100% della forma, possono anche avere qualche problema di collocazione tattica, visto che comunque in quell'Argentina non hanno sempre giocato titolari, però sono sicuramente più forti di Dario Benedetto e magari in un modo o nell'altro l'avrebbero portata a casa e non sarebbero in questa situazione. Purtroppo San Paoli fa parte di quella categoria di allenatori sudamericani, ma soprattutto argentini, che sono molta forma, molta apparenza e poca sostanza, come già altri suoi predecessori, altri suoi colleghi anche attuali, e quindi magari pensano più alla propria immagine e alla propria etichetta piuttosto che a portare a casa il risultato. Magari a volte basterebbe semplicemente pensare meno a queste cose. Noi siamo qua a stracciarci i vestiti perché dobbiamo fare il preliminare, il playoff, eccetera eccetera, stiamo qui a criticare la Serie senza giocatore. Cioè, voglio dire, se l'Argentina con questa generazione di fenomeni buca ancora non solo la vittoria di un mondiale, ma il mondiale stesso, e allora di cosa parliamo? Se per l'Italia è catastrofe, per l'Argentina con Messi di Bala, possiamo piangere in due, non è necessario. Vabbè, ho capito, però il peccato di uno è meno di quello dell'altro. Hanno un po' di qualche giocatore di talento, che dici? Anche se io, perdonatemi, penso che il grande sconfitto dell'altra notte sia Messi, perché l'altra notte era la classica Messi. Partita da Messi più 10, fuori tutti gli altri, il suo ruolo, la sua leadership, la nazionale sulle spalle e la Bombonera, tutto quello è 0-0. Potrebbe essere la grande delusione di questa generazione di giocatori argentini. Cioè, ma forse il problema di Messi è quello di non avere doti di leadership che aveva il più grande di tutti, Diego Armando Maradona, tanto per fare un esempio. Il problema era che lì davvero era Maradona più 10 quasi a caso, perché se pensiamo a come era formata la nazionale argentina nell'86 e nel 90, nell'86 campione del mondo, nel 90 finalista, e forse meritava anche di vincere, perché in quella finale con la Germania ci ricordiamo tutti come è andata a finire, con un rigore mezzo inventato a favore della Germania, trasformato proprio la fine. Eppure con Maradona in campo, veramente Cucciuffo, Enrique o l'Artico Ecea erano giocatori veramente che nei campionati Pasculi. Europei non avrebbero avuto. Quella dell'86 era pure peggio. Pasculli, campione del mondo, che poi tornò a Lecce in Serie B. Campione del mondo da protagonista e non campione del mondo giocando, alla Selvaggi. Segnando il gol decisivo negli ottavi di finale contro l'Uruguay, tra l'altro. Però comunque almeno qualche cosa si vedeva in quella nazionale dell'86. Forse quella del 90 era anche peggio. Nell'86 c'era Valdano, che comunque era un giocatore di grandissimo livello, e c'era anche Burruciaga, che comunque in Europa ha fatto la sua parte. Ma quell'altra, quella del 90, veramente, il portiere Goico Ecea ha parato tutti i rigori del mondo, poi è sparito completamente dalla circolazione, tanto per fare un esempio. Sì, sono quelle coincidenze che capitano una volta ogni tanto. Poi dobbiamo anche abituarci a dire che il girone di qualificazione sudamericano è veramente durissimo, complesso, perché la verità è che rischia di restare fuori comunque una tra Argentina, Cile e Colombia, che sono il Cile due volte vincitore della Coppa America. La Colombia è una grande squadra, fuori non quinti a fare uno spareggio sulla carta morbidissimo, ma una di queste rischia veramente di restare fuori, e dobbiamo abituarci a dire, anche se poi il mondiale allargato cambierà tutto, è che lì la qualificazione è tutt'altro che scontata, tutt'altro che semplice. No, questo è chiaro. Ed è strano, perché comunque, essendo un girone infinito di andate e ritorno tutti contro tutti, veramente c'è spazio per tutti, c'è spazio per rimontare, ed è veramente strano che certe nazionali non riescano. Molto probabilmente incidono certi fattori che sono, vabbè, i viaggi intercontinentali, quello lo diamo per scontato, ma soprattutto quello che queste grandi squadre poi riescono a ottenere sui campi delle nazionali che giocano in altura, tipo Ecuador e Bolivia. Molto spesso basta giocare in Bolivia e in Ecuador nel periodo sbagliato, e al 12° del primo tempo già si arriva col fiato corto, certo. E non si riesce ad andare avanti, e le gambe non vanno, non è solo un problema di tecnica, è un problema di cervello che non riesce a pensare, di gambe che non riescono ad andare avanti. Sì, abbiamo visto le foto dei brasiliani con le maschere d'ossigeno in spogliatoio, sì, dopo il pareggio 0-0 contro la Bolivia. E non è un vezzo, non è un vezzo. No, è una necessità. Abbiamo un minuto, mi dici Enzo chi era Recoba? Oltre al rimpianto e il vezzo di Moratti, perché quello l'abbiamo capito. Sì, quello lo diamo per scontato, lo diamo come luogo comune. Recoba era un giocatore unico, irripetibile per le sue caratteristiche, un giocatore incollocabile dal punto di vista tattico, perché l'unico che è riuscito a farlo giocare con continuità e comunque con una logica è stato Walter Alfredo Novellino nel Venezia, che lo faceva giocare in un 4-4-1-1 alle spalle di Maniero. Un giocatore di tecnica 100 punti, di fisico 0 punti e psicologicamente non si sa, però l'unica cosa che possiamo dire è che non sentiva assolutamente la pressione e non era assolutamente condizionato da niente che fosse all'esterno del campo. Poi possiamo dire che si è divertito. Sì, ci siamo divertiti era anche così, noi che essendo privo, non dico di cervello, però essendo privo di, insomma, della facoltà di pensare troppo, diciamo che non subiva pressioni. Era privo di filtri. Grazie Enzo. Privo di filtri. Grazie a voi. Grazie Enzo Palladini. Dimmi chi era Recoba, edizione in contropiede. Stanno per finire i primi tempi, poi facciamo un riepilogo dei risultati che stanno maturando. Cristiano da Milano. Cristiano. Sì, ciao a tutti. Allora, io volevo intervenire per spezzare più di una lancia in favore di Ventura, e adesso ci arrivo. Non posso però non aprire una parentesi su quello che ha detto poco fa Enzo Palladini riguardo a Italia 90, dove la Germania è stata la dominatrice assoluta, non esisteva nessun'altra nazionale. Però quella finale non l'ha dominata tanto. Adesso chi ha memoria se lo ricorda, tra il tripudio dei tifosi italiani per le note vicende, rigore, il rigorino lì. Rigorino di Breno 1-0. Dubbio, però sì, nel complesso del mondiale la Germania l'ha strameritato. No, per carità, Cristiano, ma se tu perdi un mondiale così, secondo me la pensi diversamente. Poi, Sì, sì. Allora, vediamo invece l'attualità. Allora, io sento da più parti, e non da oggi, neanche da un mese fa dopo la Spagna, critiche su critiche al CT Ventura. Allora, io vorrei sapere esattamente di che cosa si rimprovera a Ventura. Cioè, Ventura ha perso malissimo, una partita contro un avversario nettamente superiore che è la Spagna, ha pareggiato male una partita contro un avversario che l'Italia doveva battere a occhi chiusi e con un piede legato dietro la schiena. Al di là di questo, ha fatto un percorso più o meno netto. Siamo secondi nel girone, ma soprattutto... Ma io credo che gli si imputi la deriva, Cristiano. Io credo che gli si imputi la deriva, cioè quel pizzico di confusione che da settembre in poi ha dimostrato di avere nelle scelte e anche nella comunicazione, permettetemi, che non è un aspetto secondario per un commissario tecnico. Provate a trasportare tutto nel mese e mezzo del mondiale, no, certo, in cui sei sotto pressione, e lo hanno raccontato i CT precedenti, che è un mese e mezzo infernale. Vedi. Ventura ha bisogno di aiuto. Io dico, sì, che deve, beh, restare lì, ma ha bisogno di un aiuto vicino. Avrebbe bisogno di aiuto da parte dell'establishment. Che il progetto era mettergli Lippi sopra. Ma il progetto non è più quello, e allora come la mettiamo? Però Ventura è il contrario da Ferrari, cioè nel momento critico, o lo stesso da Ferrari, nel momento critico arrivi e ti sciogli, però la Ferrari sembra avere un futuro, questa nazionale arriva nel momento più difficile con un casino infernale e Ventura che non comanda più. Antonio da Sassari, dai che poi c'è il traffico. Antonio da Alghero. Buonasera, volevo tornare un attimo sulla Ferrari. Sì. Ho sentito degli interventi un po' banali sulla Ferrari. Sì, ricordatevi 5 anni fa che cos'era la Ferrari, quando l'ha presa Marchionne era da dimenticatoio. Oggi è arrivata seconda, ha avuto 2 incidenti, considerate quello di 2 gare fa che si sono scontrati tra di loro, e quello che sta succedendo è una macchina che in netta ripresa è grande come è stata sempre. Qui ho visto un po', speriamo, dei commenti. Io lo spero insieme a te. È il modo denigratori, pezzi rotti, forse corrono troppo. È una corsa con i tempi che corrono. Una Ferrari che l'altra scorsa, da ultimo, è arrivato terzo. Non so che cosa volete di più. Che cosa ci vuole di più? Non vogliamo di più. Ci siamo fatti le domande, non tanto sul fatto che il mondiale lo vince la Mercedes, quello più o meno era nelle previsioni, ma sul modo in cui nel momento decisivo la Ferrari è sparita dalla pista, ma è sparita nel vero senso della parola. 3 gare fette l'ha fatto, 5 giri di cui dietro alla safety car ne ha fatti 2, e 200 metri prima che Raikkonen gli andasse addosso a Singapore. Saluto Marino Bartoletti, ciao Marino. Ciao Marino. Ciao ragazzi. Ciao. Perché adesso torniamo da dove siamo partiti, e quindi da Aldone Biscardi. Abbiamo il traffico, un minuto, vi do anche tutti i risultati appena rientriamo dei primi tempi dei gironi europei. Marino Bartoletti, e chiudiamo così. I love this game. Tutti convocati. Ferkam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Ferkam.com vi presenta. Tutti convocati. Allora, i primi tempi, i risultati che spostano qualcosa. La Polonia vince 2-0 con il Montenegro, con questo risultato direttamente al Mondiale. Nello stesso girone, 0-0 tra Danimarca e Romania. In questo momento la Danimarca è seconda e dovrebbe finire così, perché il Montenegro dovrebbe ribaltare il risultato in Polonia. Poi Inghilterra avanti 1-0 con la Lituania, ma l'Inghilterra è già qualificata. Ma soprattutto la Scozia vince 1-0 in Slovenia e dunque in questo momento è seconda, annullando il vantaggio della Slovacchia 1-0 contro Malta. Mancano 45 minuti, quindi un paio di risultati interessano anche noi italiani. Marino Bartoletti, torno a salutarti. Ciao Marino. Ciao. Che effetto ti fa Ventura commissariato? Poi parliamo di Biscardi. Non lo so, guarda, io devo dire, ma non lo dico da oggi sinceramente, che non avrei scelto Ventura alla guida della nazionale di calcio per tanti motivi. E lo dico essendo suo coetaneo. Io credo che la nazionale meriterebbe comunque di guardare al futuro. Siamo arrivati in un cul-de-sac che veramente a questo punto direi quasi offende in qualche modo l'estetica del calcio italiano. Una persona o ci credi o non ci credi. È un momento triste, guarda, io l'età per ricordare l'eliminazione, l'unica, dai campionati mondiali di calcio, quella del 1958, a parte quella del 1930 alla quale non partecipavo. E fu una specie di lutto nazionale. Qui si parla di disastri, di catastrofe, di quant'altro. Qualcuno dice che non è immaginabile un mondiale senza di noi. In effetti, in buona parte possiamo condividerlo. Uh-huh. Però mi sembra che siamo proprio cacciati nei pasticci da soli. Poi, certo, le mamme potrebbero partorire dei giocatori migliori. Però indubbiamente si è avuto la sensazione che un Conte, che potrebbe anche essere un allenatore non molto amato per la simpatia, ha ottenuto risultati importanti, significativi, con una squadra che potenzialmente non è al certo inferiore a questa. Io sono molto, certamente, addolorato per le critiche che riceve quest'uomo, perché comunque sono sempre esagerate, anche se io ho vissuto l'era di Berzotti, in cui le cose più affettuose erano cosa ci va a fare questo scimmione ai mondiali d'Argentina, ai mondiali di Spagna, quindi poi tutto va riportato al senso delle proporzioni. Però anche è vero che vedo un senso di impotenza che mi addolora completamente. Io ho visto un allenatore per la prima volta nella sua vita così brillante dal punto di vista professionale, stordito, un confuso. Un allenatore alle corde. È la sensazione che dà. Parliamo un attimo di Biscardi. È venuto a mancare oggi, 86 anni, il papà del talk show televisivo. Inutile che ci giriamo intorno. Poi dopo, ovviamente, insomma, la sua carriera è stata lunga, lunghissima. C'è stato il trash, c'è stato tanto. Tu ci hai lavorato, ci hai collaborato, hai conosciuto, credo, tutte le stagioni di Biscardi. E correva l'anno 1982 quando mi chiamò e mi disse: vuoi prendere il posto di Enrico Ameri come conduttore del processo del lunedì? Puoi immaginare che momento è stato dal punto di vista non della mia carriera ma della mia vita, perché avevo piccole esperienze televisive ma mai avevo condotto, né mai avrei pensato di condurre una trasmissione che era già un buon marchio tra l'altro di livello nazionale. Quindi da allora ho conservato riconoscenza, affetto e quindi oggi anche dolore sincero, quella riconoscenza e quell'affetto di tanti che forse gli debbono fortune e carriere e che alla fine per tanti motivi hanno preso le distanze da lui. Certo, oggi non dirò che Biscardi azzeccava la Consecutio Temporum o che il mio gusto estetico per la televisione è uguale al suo, sì, però sai, in un mondo in cui qualcosa di rivoluzionario. Ha inventato qualcosa, io non lo so se è preterintenzionale quello che ha inventato lui, ma forse no. Comunque lui riuscì a portare in televisione una televisione molto ingessata e molto paludata, quella dell'inizio degli anni Ottanta, qualcosa di più vicino ai gusti della gente, certo con qualche eccesso assolutamente perdonabile alla luce di quello che poi è successo dopo, perché il problema non è Biscardi, non è stato Biscardi, secondo me è stato il cosiddetto biscardismo e i suoi pessimi imitatori, non soltanto nello sport ma anche nella politica, in ogni forma di talk, perché allora non si chiamava talk, per cui mi fanno dire ridateci Mosca, Gazzaniga, De Cesare, Rozzi, perché in fondo erano belve innocenti rispetto a quello a cui assistiamo adesso. Lui non può da ridere che è morto, sorridere benevolmente, dolcemente, è morto proprio quando è entrato in campo il VAR, cioè la sua famosa muviola. Le mitologiche battaglie. Sì, c'è chi ha scritto che l'unica battaglia... c'è chi ha scritto che l'unica battaglia persa da Biscardi fu per la convocazione di Baggio nel mondiale del 2002, credo, adesso non ricordo. Sì, mondiale di Corea e Giappone. Esatto, 2002. Ma sai, lui ha avuto vittorie, ha avuto sconfitte, ma alla fine non possiamo non ricordarlo anche come bravo cronista, ragazzi, perché cioè Berlusconi andava da lui. Sì, sì. Noi ridiamo per lo scoop, ma gli scoop c'erano, eh. Cioè, a modo suo, lui con i suoi sistemi, mettendoti la mano sulla schiena, dandoti del tu, trattando Pertini come se fosse suo fratello, e ha avuto anche Pertini in trasmissione, ha avuto anche Benigni in trasmissione, Pertini mi chiamò signorina Bartoletti, voglio dire che dopodiché poi uno comunque doveva guardarlo il processo perché le notizie venivano fuori, non c'è niente da fare, certo con un po' di malizia, certo non stiamo parlando di un santo, anche se questo è il giorno ovviamente del dolore e dell'indulgenza, però se vogliamo parlare di un giornalista, aveva un fiuto animale che sicuramente dovrebbe essere una buona scuola anche per tanti suoi indegni successori, mi verrebbe da dire. Grazie Marino. Ciao Marino. Un abbraccio. Ciao Marino. Grazie Bartoletti. Marino Bartoletti. Abbiamo finito qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Roberta Frisani in regia. Allora, tutti convocati weekend, torna domenica alle 17 e c'è un weekend con tre partite da non perdere, che cominceranno a dirci qualcosa sul campionato di Serie A. Tutti convocati invece torna domani dopo il GR delle 14 con Pierluigi Pardo e Carlo Genta. Ciao a tutti. Ciao. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Thank you.